Nutritevi con le parole della fede. Allenatevi per essere pii. L'allenamento fisico, infatti, serve a poco, mentre la pietà serve a tutto e reca con sé la promessa della vita presente e di quella futura. I servi, che hanno padroni credenti, non li disprezzino, poiché sono fratelli, ma piuttosto li servano, poiché hanno la fede. Chi dona agli altri, lo faccia con semplicità. Chi presiede, sia sollecito. Chi compie opere di misericordia, le compia con gioia. L'amore sia sincero. Detestate il male e tenetevi stretti al bene. Siate amorevoli gli uni verso gli altri con amore fraterno. Prevenitevi a vicenda nel rendervi onore. Non siate indolenti nello zelo, siate ferventi nello spirito, servite il Signore. Rallegratevi della speranza, pazientate nella tribolazione, perseverate nella preghiera. Adoperatevi di praticare l'ospitalità e fate la vostra parte nel sovvenire alle necessità dei santi. Dal pedagogo al maestro. Questi pochi brani, fra molti, il pedagogo ha tratto dalle stesse divine scritture a guisa di esempio e li propone ai suoi bambini. Sono brani grazie ai quali viene, per così dire, tagliata alla radice la malizia e frenata l'ingiustizia. Vi sono migliaia di precetti scritti nei sacri libri che si riferiscono a persone specifiche, ai presbiteri, ai vescovi, ai diaconi, alle vedove. Forse avremo altra occasione di parlarne. Molte sono poi le cose dette in maniera enigmatica e molte quelle espresse in parabole da cui può trarre beneficio chi le legge. Ma non è compito mio, dice il pedagogo, insegnarvi queste cose. Ora, infatti, abbiamo bisogno, per la spiegazione di quelle sante parole, di un maestro. È verso di lui che dobbiamo ormai dirigerci. Per me è giunto il tempo di terminare la mia pedagogia e per voi di prestare ascolto al maestro. Quest'ultimo vi accoglierà avendo voi già ricevuto l'educazione di una buona pedagogia e vi insegnerà le sentenze divine. La scuola è questa nostra chiesa e il fidanzato è il solo maestro, che è volontà buona del Padre buono, sapienza autentica, santificazione dell'agnosi. Egli è la propiziazione per i nostri peccati, come dice Giovanni. È Gesù, colui che guarisce il nostro corpo e la nostra anima, cioè l'uomo nel suo insieme. Propiziazione non solo per i peccati nostri, ma per tutto il mondo. E in questo sappiamo che lo abbiamo conosciuto, se osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice lo conosco, ma non osserva i suoi comandamenti, è un falso, e in lui non è la verità. Ma chi osserva la sua parola, in lui veramente l'amore di Dio è perfetto. In questo sappiamo che siamo in lui. Chi dice di dimorare in lui, bisogna che anch'egli cammini come egli ha camminato. Dio è creatore di tutto. O allievi della divina pedagogia, orsù completiamo la bellezza del volto della Chiesa e corriamo, noi piccoli, verso la Madre Buona. Diventando ascoltatori del Logos, glorifichiamo il divino piano provvidenziale, grazie al quale l'uomo viene sia educato dalla pedagogia divina che santificato in quanto bambino di Dio. È cittadino dei cieli, mentre viene educato sulla terra. Riceve lassù per padre colui che in terra impara a conoscere. Di tutto in vero il Logos è creatore, maestro e pedagogo. Il cavallo è guidato dal morso e il bue dal giogo. La belva è catturata col laccio. L'uomo è trasformato dal Logos, lo stesso Logos che ammansisce le belve, prende all'amo i pesci e cattura gli uccelli. È lui, in verità, che escogita il morso per il cavallo, il giogo per il bue, il laccio per la belva, la canna per il pesce, la rete per l'uccello. È lui che gestisce la vita cittadina e la vita di campagna. È lui che governa e che serve e tutto crea. Egli ha creato questa terra e il cielo e il mare e tutte queste stelle che incoronano il cielo. O creazioni divine, o divini precetti! Ecco l'acqua, che le sue onde si tengano nei limiti del mare. Ecco il fuoco, che trattenga il suo furore. Ecco l'aria, che vada spaziando per l'etere. Ecco infine la terra, si raffermi e si muova quando io lo voglio. E ora desidero ancora plasmare l'uomo, o come materia gli elementi e io stesso coabiterò nella mia creatura. Se mi conoscerai, anche il fuoco ti servirà. Tanto grande dunque è questo Logos, il pedagogo, il creatore del mondo e dell'uomo, e per mezzo di quest'ultimo, pedagogo ormai anche del mondo intero. Per suo decreto entrambi, l'uomo e il mondo, siamo stati formati così da essere in attesa del giudizio. La sapienza infatti non reca ai mortali suono di parola furtiva, come dice Bacchilide. Ma voi, figli di Dio irreprensibili, semplici, immacolati, in mezzo ad una generazione dura e pervertita, risplendete come astri nel mondo. Preghiera al pedagogo. Quel che ci rimane ancora, dopo questo elogio del Logos, è rivolgere la nostra preghiera al Logos stesso. Sii propizio, o pedagogo, ai tuoi bambini, o padre, o detentore delle redini di Israele, figlio e padre, entrambi uno, Signore. Concedi a noi, che seguiamo i tuoi precetti, di completare la somiglianza con la tua immagine e di sentire, secondo le nostre forze, il Dio buono e giudice mansueto. Donaci tutte le cose tu stesso e concedici di vivere nella tua pace, di trasmigrare nella tua città dopo aver attraversato il mare burrascoso del peccato, senza essere stati travolti dalle onde, e pervenuti ad acque calme di essere cullati dallo Spirito Santo, che è sapienza inesprimibile, e di cantare l'inno di ringraziamento di notte e di giorno fino al giorno eterno all'unico Padre e Figlio, Figlio e Padre, pedagogo e maestro, Figlio insieme allo Spirito Santo. Tutto sia per l'unico in cui tutto è, in virtù del quale tutto è uno e grazie al quale esiste l'eternità, del quale tutti siamo membra, al quale appartengono la gloria e i secoli eterni. Tutto per colui che è buono, tutto per colui che è bello, che è sapiente, che è giusto. A lui la gloria, ora e nei secoli. Amen. Inno a Cristo Salvatore. Poiché il pedagogo ci ha costituiti nella Chiesa e ci ha affidati alle sue proprie cure di Logos che insegna e sovrintende tutto, sarebbe bene che, giunti a questo punto, ripagassimo il nostro debito di giusta gratitudine lodando il Signore in maniera degna della sua sapiente pedagogia. O freno di inesperti puledri, ala di uccelli dal volo sicuro, saldo timone delle navi, pastore di agnelli regali, raduna i tuoi bambini semplici perché santamente lodino, perché senza doppiezza celebrino con labbra innocenti il duce dei bambini, Cristo. O re dei santi, Logos trionfatore, figlio dell'Altissimo Padre, principe della sapienza. Sostegno negli affanni, caro al mondo, Gesù salvatore della stirpe mortale, pastore, coltivatore, timone, freno, ala celeste della Santissima Greggia, pescatore dei mortali, che tu salvi dall'oceano del male. Trai all'amo della vita soave i pesci puri dall'onda nemica. Delle pecore spirituali, pastore santo, guida, o re, i bambini illesi, orme di Cristo, sentiero celeste. Logos, che scorri perenne, tempo senza fine, eterna luce, fontana di misericordia, operatore di virtù, di quei che con la vita loro veneranda rendono lode a Dio. Cristo Gesù, latte celeste, dai dolci seni di colei che è la sposa delle grazie, della tua sapienza spremuto. E noi piccoli, con tenere labbra, succhiando il latte, saziandoci della rugiada dello Spirito, dal seno del Logos, orsù, cantiamo insieme lodi semplici e inni sinceri a Cristo Re, come sacro tributo per l'insegnamento di vita. Orsù, portiamo in processione con semplicità il Bambino Onnipotente, noi coro di pace, noi stirpe di Cristo, noi popolo saggio, inneggiamo insieme al Dio della pace.